Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17:07 minuti in questo momento, nuovo appuntamento con Focus Economia. Abbiamo davvero sperato oggi di poter cominciare la giornata dicendovi che i listini si apprestavano a chiudere con il segno più. Non ci stiamo riuscendo, ci sono cali in Europa, non come questa mattina però, la situazione è migliorata, non nettamente ma è comunque migliorata rispetto all'andamento della mattinata e del primo pomeriggio. Intanto possiamo dire che il Dow Jones guadagna l'1,29%, il Nasdaq è in progresso dell'1,68%, e questo nonostante la fiducia dei consumatori precipitata ai minimi storici e nonostante le parole del governatore della Fed Bernanke, il quale però ha detto più cose che evidentemente sono piaciute in qualche modo ai mercati. Sicuramente Bernanke ha detto l'economia americana sta sperimentando una severa contrazione, severa insomma potrebbe sembrare un termine poco adeguato o quantomeno un po' soft per il momento, ma comunque Bernanke ha anche detto che questa recessione, iniziata nel dicembre del 2007, potrebbe finire nel 2009. Poi ci vorranno certamente più anni, una ripresa completa potrebbe aversi in 3 anni, questo ha detto Bernanke, però comunque sia tra il 2009 e il 2010 potrebbe esserci il momento di svolta, e questo evidentemente è stato gradito dai mercati. In Europa, Parigi cede lo 0,45%, Francoforte lo 0,73%, Londra lo 0,82%, Milano meglio, fa meglio degli altri, il MIB tale inflessione di uno 0,24%, mentre l'S&P MIB guadagna lo 0,37%. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Il primo che è arrivato, ancora prima che iniziassimo a parlare, è: ma come fa a finire la crisi se c'è un'inarrestabile gara a farla più brutta, irrecuperabile, infinita, anche dando spesso in modo fazioso più volte la stessa news? A dir la verità, noi facciamo i salti mortali per cercare di essere abbastanza equilibrati e certe volte ottimisti, ecco, e non farla così brutta come davvero in certi giorni non solo appare, ma è. Oggi parleremo del vertice Italia-Francia e dell'accordo sul nucleare, cercando di capire anche un po' meglio di che cosa si tratta, perché per il momento c'è appunto la firma su 2 memorandum d'intesa. Staremo a sentire in che cosa consistono queste intese, e poi torneremo anche sulla storia infinita della Torino-Lione, perché ieri il presidente Berlusconi lo aveva riaffermato dalle pagine di Le Figaro, oggi ne hanno parlato ancora Sarkozy e Berlusconi. La Torino-Lione si farà e poi vedremo a che punto sono i lavori, e poi ovviamente parleremo di mercati, perché la giornata era cominciata davvero male, soprattutto in Asia, in Giappone, che poi ha chiuso la seduta in calo di un meno 1,46%, ma ai minimi da oltre 26 anni a questa parte. E poi parleremo anche di un settore particolare, che è quello alimentare. Federalimentare ha diffuso i dati dell'anno appena trascorso, nonostante un momento di crisi. Comunque il settore ha tenuto. Questi i principali temi di oggi, vi ribadisco 349-238-6666 per tutti i vostri sms. Adesso le nostre notizie in breve. Allora partiamo con il petrolio. Petrolio a New York poco mosso a $38,55 al barile, in progresso dello 0,3%. Come ogni giorno vi aggiorniamo sull'Euribor, sull'andamento di questo tasso a 3 mesi, scende all'1,86%, ieri era all'1,87%. Parliamo dei bot a 6 mesi, il rendimento tocca un nuovo minimo record dopo quello segnato a fine gennaio. Nell'asta di oggi i titoli semestrali del Tesoro hanno registrato un rendimento lordo dell'1,23%, in calo di 0,24 punti circa. In netto arretramento anche la cedola per i CTZ, ovvero i certificati del tesoro zero coupon, a scadenza 30 settembre 2010, che toccano nuovi minimi a 1,83%. L'importo offerto da Via 20 settembre per i BOT a 185 giorni è di 10 miliardi, contro richieste che hanno superato i 13 miliardi. Alta anche la domanda dei CTZ per quasi 4 miliardi e mezzo contro un'offerta di 2,5 miliardi. Lo dicevamo in apertura del programma, il Giappone sta attraversando un momento davvero molto molto difficile. Il ministro dell'economia e delle finanze giapponese, Yoshino, ha aperto all'ipotesi di misura a sostegno del mercato azionario, sceso a Tokyo appunto ai minimi degli ultimi 26 anni. L'eccessivo calo dei titoli è indesiderabile, questo è quanto ha detto il ministro. Il governo prenderà in considerazione ciò che può fare se i prezzi dovessero scendere troppo, e tra poco cercheremo di capire anche in che modo. Dal Giappone ci spostiamo negli Stati Uniti. American International Group, conosciuta meglio come ING, in trattative col governo americano per ottenere nuovi prestiti che consentano alla società di far fronte alle perdite pesantissime subite nell'ultimo trimestre. Lo rivela l'emittente CNBC, aggiungendo che secondo alcune fonti ING potrebbe aver registrato nel trimestre una perdita di quasi 60 miliardi di dollari, la maggiore mai subita da una società americana. I risultati di bilancio di questa società saranno annunciati il prossimo lunedì. E restiamo negli Stati Uniti, perché l'ex amministratore delegato di Merrill Lynch, John Tain, comparirà oggi in tribunale a New York per fare i nomi di coloro che hanno intascato bonus per oltre 3 miliardi di dollari poco prima che la banca d'affari, quindi Merrill Lynch, fosse salvata dal fallimento dalla Bank of America e dal governo statunitense. Questa è sicuramente una vittoria per il procuratore generale di New York, Andrew Cuomo, che ieri ha avanzato la richiesta di comparizione in tribunale proprio per Tain, per stabilire se Merrill Lynch abbia infranto la legge pagando prematuramente le gratifiche a oltre 39.000 dipendenti proprio mentre i contribuenti sborsavano i propri soldi per aiutare tutto il settore bancario. Su questa notizia ci verrebbe da dire che alla fine ci salverà un gioco. Provate a salvare l'economia americana. Questa è la sfida lanciata in un videogioco online che invita gli internauti a salvare l'economia prima che affondi completamente. Il gioco, intitolato Trillion Dollar Bailout, ovvero piano di salvataggio da 1.000 miliardi di dollari, è stato lanciato da addictinggames.com e consiste in una busta virtuale di 1.000 miliardi di dollari per salvare i proprietari in difficoltà e ricompensare o anche punire i responsabili della crisi. Lo dicevamo oggi, notizia arrivata dagli Stati Uniti: l'indice della fiducia dei consumatori statunitensi, calcolato dal Conference Board, nel mese di febbraio è crollato al minimo storico di 25 da 37,4 di gennaio. Il governatore della Fed ha parlato da pochissimo: una ripresa completa dell'economia potrebbe aversi in più di 3 anni, ha detto Bernanke intervenendo davanti alla Commissione bancaria del Senato americano. Bernanke però ha anche poi precisato: una ripresa potrebbe aversi nel 2010 solo se i mercati e le banche si saranno stabilizzati. Appunto, l'economia statunitense sta sperimentando una severa contrazione e comunque tutti gli strumenti sono in campo e sono disponibili per affrontare e per combattere questa crisi. Questo è quanto ha detto il governatore della Fed. E se negli Stati Uniti la fiducia è ai minimi, da noi risale. Prosegue a febbraio il recupero della fiducia dei consumatori, questo è quanto riferisce l'ISAE, sottolineando che l'indice sale a 104,1 da 102,6 di gennaio, tornando sui massimi dal dicembre 2007. Migliorano soprattutto, spiega la nota, le percezioni sulla situazione personale e quelle sul quadro corrente. Ne parleremo poi nella seconda parte del programma. Nel 2008 l'export alimentare ha fatto registrare un rilevante più 9,7% in valuta, oltre 19 miliardi di euro. Questo è quanto ha reso noto il presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio, presentando proprio il bilancio 2008 dell'industria del settore. E per quanto riguarda le imprese italiane, anche di questo ne parleremo nella seconda parte del programma, Vucompra addio. Oggi l'immigrato imprenditore è un professionista tutto tondo che dà lavoro, si stima, ad almeno 500.000 di lavoratori, anche italiani. Fin qui le nostre notizie in breve, adesso invece cominciamo con il primo tema di approfondimento, ovvero il vertice Italia-Francia che si è svolto questa mattina. Il presidente Berlusconi ha ospitato il primo ministro, il presidente Sarkozy e anche il primo ministro Fillon. Si è parlato ovviamente di crisi, la situazione probabilmente peggiorerà, ha detto Nicolas Sarkozy nella conferenza stampa conclusiva, rispondendo proprio ad una domanda precisa sulla crisi e sull'ipotesi di nazionalizzare le banche in Europa a seconda poi delle diverse esigenze. Sarkozy è tornato anche su uno dei punti affrontati domenica nel vertice di Berlino, ovvero sui paradisi fiscali. Vogliamo sanzionare i paradisi fiscali, controllare gli hedge fund, fissare nuove regole per la retribuzione dei banchieri, dei trader e per i bonus. Questo è quanto ha detto Sarkozy, ma ascoltiamolo. L'Italia e la France, nous voulons changer l'Europe. Italia e Francia vogliono cambiare l'Europa per proteggere i suoi abitanti ed arginare le conseguenze della crisi. Vogliamo sanzionare i paradisi fiscali, controllare gli hedge fund, stabilire nuove regole per le retribuzioni e i bonus nel settore finanziario e avere una politica economica comune. Se gli Stati Uniti difendono la loro industria, può darsi che anche noi possiamo farlo. Quello che chiediamo è che non ci sia ingenuità, ma più coordinamento e determinazione. Sono decisi a prendere la responsabilità per parlare di una voce e ottenere dei risultati. Il presidente francese Sarkozy non si è detto tra l'altro entusiasta dell'idea proposta dal segretario al tesoro statunitense Tim Geithner di creare una bad bank dove riunire i titoli tossici, ipotesi che peraltro non ha rassicurato i mercati finanziari, questo ha detto Sarkozy, il quale ancora ha detto i risparmiatori italiani e francesi non hanno perso un euro dal fallimento delle banche, anche perché attualmente almeno in Italia questo non si è verificato. È quanto ha affermato appunto il presidente Sarkozy, ricordando come sia stata compiuta la promessa fatta dai rispettivi governi di tutelare i risparmiatori. E proprio sulla nazionalizzazione, eventuale ipotesi di nazionalizzazione di alcuni istituti, il presidente della Repubblica francese ha espresso alcuni dubbi in merito in particolare alla negativa esperienza del Credit Lyonnais, quindi memore di questa esperienza, per il presidente francese è preferibile rafforzare il capitale delle banche e fornire loro garanzie piuttosto che appunto procedere alla nazionalizzazione. È intervenuto sul tema anche il presidente Berlusconi. In alcuni paesi la decisione di arrivare a nazionalizzare le banche è migliore del prestare soldi direttamente, se poi queste non fanno il loro dovere finanziando poi le imprese. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ma sentiamolo. In certi paesi probabilmente la decisione di arrivare a una nazionalizzazione delle banche è una decisione migliore rispetto al fatto di dare soltanto dei fondi alle banche, lasciando poi che queste banche non facciano le banche, cioè non prestino i loro soldi al mondo delle imprese e dell'economia. Per quanto riguarda l'Italia, questa è una soluzione naturalmente che non è in nessun modo ipotizzabile, perché il nostro sistema bancario, per nostra fortuna, è un sistema bancario molto solido, siamo oltresì un popolo di risparmiatori, le nostre banche non hanno corso l'avventura dei titoli cosiddetti tossici, e avendo noi messo a disposizione una somma importante, 10-12 miliardi di euro per incrementare la patrimonializzazione delle banche, ad oggi nessuna delle banche italiane si è sentita necessitata ad utilizzare questi fondi, da che si desume la solidità del nostro sistema bancario. 349-238-6666 per i vostri sms. C'è chi ci scrive: per chi ha fatto la fame da sempre non vede questa crisi come un gran problema, e questo è ovviamente a seconda dei punti di vista, ma ha ricaduta poi su tutti. La crisi porterà conseguenze negative per tutti, purtroppo anche per chi non ha vissuto periodi felici anche in passato. Vorrei rassicurare tutti gli ascoltatori che ci chiedono in merito all'assenza di Sebastiano Barisoni in questi giorni, che Sebastiano si siederà nuovamente su questa sedia domani, è assente per questioni di lavoro, bisogna concedere anche a lui ogni tanto la possibilità di spostarsi e di seguire altre cose, come ovviamente caratteristica del nostro lavoro. Dicevamo, l'incontro, il vertice a Roma tra Italia e Francia non ha visto sul tavolo solo l'argomento della crisi economica e finanziaria che sta attraversando l'Europa, così come gli Stati Uniti, così come in particolare alcuni paesi asiatici, ma anche un accordo sul nucleare. Enel e EDF formeranno un consorzio a maggioranza italiana per costruire almeno 4 centrali nucleari di terza generazione in Italia e renderanno operativa la prima unità entro il 2020. Per il momento sono stati firmati 2 memorandum di intesa. Noi sentiamo adesso quanto ha detto il premier Silvio Berlusconi, il quale è tornato a dire che dobbiamo proprio svegliarci dal nostro sonno, adeguarci, perché il futuro è nell'energia rinnovabile, sì, ma anche nel nucleare. Sentiamo. Questo trattato comporta una politica nucleare condivisa tra i due paesi in una prospettiva paritetica e anche di lungo periodo. La Francia ha oggi un assetto tale che le consente di produrre per via nucleare quasi l'80% del suo fabbisogno, con 2 conseguenze. Il primo, che questa è produzione di energia pulita in un sistema ormai di assoluta sicurezza. Il secondo, che i cittadini francesi pagano l'energia che consumano quasi la metà rispetto ai cittadini italiani. Per questo noi dobbiamo svegliarci da questo sonno, dobbiamo adeguarci, e adeguandoci potremo intanto contribuire anche entrando nel capitale per la realizzazione di altre centrali nucleari in Francia o in altri paesi. E poi dovremo naturalmente affrontare costruzione e la realizzazione di centrali nucleari in Italia. Quindi avremo al nostro fianco gli amici francesi che ci hanno messo a disposizione il loro know-how, e questo ci consentirà di risparmiare diversi anni e di poter iniziare la costruzione delle centrali in un tempo assolutamente contenuto. Allora, anche il presidente Sarkozy si è espresso più in generale sul tema del nucleare, già molto molto presente in Francia. Vogliamo che il nucleare diventi una questione europea, ha detto Sarkozy, perché rappresenta la chiave dello sviluppo. Sentiamolo. La prima decisione molto importante l'ha presa l'Italia, confermando la scelta di un ritorno al nucleare. La Francia propone all'Italia una partnership senza limiti. Nel nucleare noi vogliamo sviluppare un'energia pulita con voi, e questa collaborazione coinvolgerà le centrali nucleari, vedrà partecipazione di capitali e collaborazione per la formazione degli ingegneri. Noi vogliamo lavorare con voi, questo è un fatto storico. È necessario che l'Europa si svegli e decida cosa vuole. Se l'Europa vorrà rispettare questo impegno entro il 2020, dovrà fare 2 cose: sviluppare al massimo le energie rinnovabili, e noi lo faremo, e sviluppare il nucleare. Ce que nous allons faire, et développer le nucléaire. Allora, lo dicevamo qualche minuto fa, si tratta per il momento della firma di due memorandum, per cui abbiamo cercato di capirne qualcosa di più, di farci spiegare qualcosa di più per capire che cosa c'è scritto sostanzialmente e a che cosa andiamo incontro. Lo abbiamo chiesto a Gianluca Comin, che è il direttore delle relazioni esterne dell'Enel. Sono due accordi. Il primo prevede che Enel entri nel capitale della costruzione della seconda centrale nucleare francese, quella di Penly, che segue il nostro investimento a Flamanville. È una partecipazione del 12,5% del capitale, ma che ci consente di avere energia per il mercato francese. Oggi già ne vendiamo circa 600 megawatt, arriveremo a 1200. E a continuare quindi il nostro programma di espansione internazionale. Il secondo accordo, altrettanto importante, prevede che Enel ed EDF si mettano insieme, costituiscano una società per studiare lo sviluppo del nucleare in Italia e che una volta studiato e approvate anche le leggi che oggi sono in discussione in Parlamento, si possa sviluppare un piano che prevede la costruzione di almeno 4 reattori di tecnologia francese, con la leadership di Enel, con la maggioranza di Enel, con il capitale aperto anche ad altri operatori che volessero partecipare, ma comunque sempre con la maggioranza di Enel ed EDF, e che potranno vedere la luce a partire dal 2020. Ecco, però visto che si parla di studio per il momento, è realistico pensare che nel 2020 possa vedere la luce almeno la prima di queste quattro centrali? Ma dai nostri studi abbiamo visto che per costruire un reattore nucleare ci vogliono almeno 10 anni, di cui 5 di lavori, e lo stiamo verificando oggi a Flamanville, e circa 4 o 5 di processo autorizzativo, caratterizzazione dei siti, progettazione e quant'altro. Considerando che la legge è in Parlamento e quindi deve essere approvata e poi ci vorranno i decreti attuativi, noi consideriamo tutto l'anno 2009 e forse una parte del 2010 per chiudere il percorso autorizzativo e per identificare i siti. Poi ci sono i 10 anni di autorizzazioni di costruzione, quindi è abbastanza realistico prevedere al 2020 il primo megawatt nucleare prodotto in Italia. Dal punto di vista economico, quali sono gli investimenti, almeno allo studio? Ma questo accordo non parla di cifre di investimento, perché come è immaginabile è ancora in una fase, diciamo, di progettazione. Oggi una centrale nucleare come Flamanville costa circa 5 miliardi di euro e quindi il piano italiano è facile immaginare quanto possa costare. Stiamo parlando di cifre enormi che richiedono investimenti importanti, ma che sono anche collocati molto in là nel tempo, per cui oggi non sono nei piani delle aziende né di EDF né di Enel, perché stiamo parlando di costituire un gruppo di lavoro che deve studiare dove e come costruire nuove centrali. Poi verrà il tema dei finanziamenti. Ora ci fermiamo per qualche istante, prima però rispondiamo a un ascoltatore che ci chiede una stima in merito alla stima sul PIL tedesco 2009. Sì, la Deutsche Bank ha stimato un calo del PIL del 2009 per la Germania pari al 5%. Le 17.34, ci siamo salutati qualche minuto fa parlando ovviamente del vertice di oggi Italia-Francia. Abbiamo parlato dell'accordo per il momento della firma sul memorandum d'intesa per quanto riguarda il nucleare. Oggi si è parlato anche di TAV di Torino-Lione, perché ieri Berlusconi aveva concesso un'intervista alle Figaro ribadendo che sicuramente la Torino-Lione si farà, e oggi Sarkozy ha dichiarato molto apprezzato gli sforzi di Berlusconi per convincere i comuni italiani ad andare avanti sull'alta velocità per la Torino-Lione e sul trasporto modale, sviluppando i collegamenti tra Italia e Francia, non solo ovviamente attraverso i camion che passano per tunnel. La storia è stata molto travagliata, lo sarà ancora sicuramente. Per quanto riguarda proprio la Torino-Lione, che fa parte del corridoio 5, ricordiamolo, lunga 254 chilometri, di cui 51 di galleria tra Francia e Italia, ha un costo complessivo della tratta internazionale di 9 miliardi di euro e di cui il 60% a carico dell'Italia. A dicembre il presidente dell'osservatorio, perché c'è anche un osservatorio sulla Torino-Lione, Mario Virano, si era dimesso segnalando il rischio che la progettazione dell'opera uscisse dai tempi previsti dall'Unione Europea per resistenze e lentezza. In altre parole, qui si rischiava di perdere i fondi dell'Unione Europea. Il 16 gennaio il governo gli ha rinnovato il mandato con poteri più ampi. Ora, a fine marzo c'è il primo appuntamento, la gara d'appalto per la progettazione della nuova linea. Paolo Piacenza ha intervistato Mario Virano e gli ha chiesto a che punto è il lavoro. Quando io avevo gettato l'allarme perché mi pareva che non ci fossero le condizioni per rispettare il calendario europeo, era legato al fatto di riuscire a definire le specifiche tecniche dettate dal territorio in tempo utile per la gara. Con uno sforzo straordinario di tutti, sottolineo di tutti, il 4 di febbraio queste specifiche tecniche sono state completate in tempo utile e quindi sono state inserite nei documenti di gara rispettando i tempi e gli obiettivi che avevamo avuto dal tavolo politico di Palazzo Chigi. A questo punto che cosa resta da fare all'osservatorio? Adesso comincia la fase della redazione del progetto che verrà fatta da questi soggetti tecnici scelti attraverso gara, ma di cui l'osservatorio svilupperà una governance generale del processo, del progetto, con però un contributo attivo, per cui noi entro il 30 di aprile siamo impegnati a raccogliere per le 5 grandi aree del territorio che abbiamo individuato le proposte operative che vengono dai territori, con il compito di armonizzarle e poi di darle come input progettuale per le ingegneri che usciranno vincitrici da questa gara. C'è ancora una forte contrapposizione? Il quadro è fortemente modificato. Evidentemente resta una diffidenza che ci stimola a lavorare in un modo molto attento. Restano delle aree anche istituzionali, alcuni consigli comunali, di opposizione netta e formalizzata all'interno di una maggioranza che invece è favorevole a questo processo di dialogo. Sicuramente la campagna elettorale e il suo risultato saranno un ulteriore elemento di chiarificazione. Per il resto io credo che dovremo cominciare a dare degli esempi concreti, dei risultati che con il metodo della concertazione si possono ottenere. Questo è il punto sul vertice Italia-Francia per gli argomenti principali. 349-238-6666, vi ricordo il numero a cui inviare i vostri sms. Adesso noi ci trasferiamo sui mercati. Benvenuto, buon pomeriggio a Guido Maurino, collega di Radiocor. Buon pomeriggio a voi. Allora, lo abbiamo detto in apertura, abbiamo sperato quest'oggi di dare notizie tutte positive. In realtà dobbiamo dire che l'Europa chiude con il segno più, però Milano ha fatto meglio delle altre. Il MIB ha l'inflessione di uno 0,20%, l'S&P MIB più 0,29%, quindi qui un segno positivo c'è. Guido, le banche stanno accelerando? Sì, le banche oggi hanno accelerato, in particolare diciamo le banche più grandi come Intesa San Paolo, che ha guadagnato il 6,39%, e Unicredit che ha guadagnato il 3,5%, in una giornata comunque positiva in Europa per molti titoli del settore. Sulle banche italiane diciamo che hanno influito in qualche modo anche le parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che è tornato ad escludere nazionalizzazioni per gli istituti italiani. D'altra parte anche a Wall Street le banche avevano iniziato abbastanza bene, in particolare Citigroup, che invece adesso è tornata a flettere leggermente. Un'altra brutta giornata per Seat Pagine Gialle, fanalino di coda anche oggi, meno 8,70%. Sì, Seat Pagine Gialle oggi ha ceduto l'8,7%, si tratta per il titolo di un'altra giornata storta, un'altra giornata negativa. Dobbiamo pensare che in tre sedute, da quando ha presentato, diciamo, l'aggiornamento del piano strategico 2009-2011, Seat ha perso circa il 25% e da inizio dell'anno le perdite arrivano al 55%, quindi diciamo prosegue la scia negativa per Seat Pagine Gialle. Una giornata no anche per Unipol, che è il secondo peggior titolo, meno 7,12%. Sì, anche qui arriviamo a una giornata negativa che segue un'altra giornata negativa come quella di ieri, dove Unipol aveva perso il 5,82%. Diciamo che in questo periodo la compagnia è un po' disturbata da alcune voci, da alcune indiscrezioni di stampa sulla possibile uscita del numero uno della compagnia assicurativa Carlo Salvatori, che potrebbe, secondo appunto indiscrezioni, approdare alla presidenza della BPM al posto di Roberto Mazzotta. D'altra parte, sul gruppo pesano anche le attese negative sui conti di fine anno, perché gli analisti si attendono una sorta di pulizia di bilancio relativamente al quarto trimestre, che andrebbe a ripercuotersi sui risultati e sul dividendo. Oggi attenzione del mercato anche su Generali Alleanza, il giorno dopo dell'annuncio della fusione per incorporazione della controllata nel Leone di Trieste. Sì, diciamo che oggi hanno avuto un piccolo sbandamento iniziale, poi Generali ha chiuso con un meno 1%, mentre Alleanza ha addirittura chiuso in modo leggermente positivo. Diciamo che gli analisti non hanno gradito particolarmente l'operazione, però ci sono una serie di fattori che vanno a far sì che l'operazione sia stata giudicata in modo quasi neutro dal mercato. Anche il fatto, ad esempio, che le agenzie di rating abbiano confermato il loro giudizio sul debito, in fondo sta a dimostrare che l'operazione è considerata in qualche modo in modo neutrale. Neutrale. Ecco. Soffre anche Finmeccanica, in realtà ha sofferto anche ieri il titolo di Finmeccanica, oggi chiude in flessione del 5,05. Sì, su Finmeccanica vanno a pesare un po' le attese per quello che intende fare il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, sì, da cui ci si attende tagli alle spese militari. Oggi tutti i titoli che sono esposti sul settore ne hanno risentito. Finmeccanica appunto ha perso il 5,05%, sempre su queste attese negative. Qualcosa di più si saprà giovedì, quando Obama presenterà il budget al 2010, e per quella data, diciamo, dovrebbe essere un attimino più chiaro cosa intende fare. Sì, anche se comunque questa commessa per gli elicotteri è un accordo già firmato. Sì, però ci sono anche prospettive, oltre a questa commessa sugli elicotteri, ci sono prospettive, diciamo, un po' più a lungo termine, che riguardano in particolare l'uscita, ad esempio, preannunciata in campagna elettorale di Barack Obama dall'Iraq, eccetera. Per cui a questo punto, siccome il Presidente vuole comunque tenere sotto controllo il debito degli Stati Uniti, da qualche parte, essendo impegnato un grande programma di rilancio, deve tagliare, per cui ci si attende un aumento delle tasse da una parte e un taglio delle spese militari dall'altra. Allora, Fiat, ieri non è andata decisamente bene, soprattutto nel finale, dopo il taglio del rating da parte di Moody's, il titolo ha perso scarsi 6 punti percentuali. Oggi è riuscita a risalire chiudendo praticamente piatta, più 0,07%. Fiat, diciamo che oggi è rimasta per tutta la giornata abbastanza debole, per poi chiudere nel finale a più 0,07%. La notizia del declassamento dei titoli del debito da parte di Moody's aveva colpito molto ieri, oggi ha colpito nella prima parte della giornata, e in qualche modo sembra che col passare delle ore sia stata riassorbita. Vale inoltre la pena sottolineare forse che comunque oggi Fiat ha annunciato anche un nuovo periodo di cassa integrazione a Termini Imerese. Ecco. Sì. Fra gli energetici, Enel, dopo che Fitch Ratings e Moody's hanno messo i rating sotto osservazione, l'andamento di questo titolo? Sì, oggi diciamo Enel si è mossa sostanzialmente quasi in linea col mercato, anche se poi è rimasto un attimino indietro con il miglioramento finale delle borse, sì. E ha perso l'1,21%. Esatto, sì. Era anche il giorno in cui Enel ha annunciato questo accordo con EDF per la costruzione di centrali nucleari. Sì, un po' in là nel tempo, ne abbiamo parlato, sì, nella prima parte del programma. Se vedrà la luce la prima sarà comunque nel 2020, quindi c'è tempo, sì, per pensarci ancora su, tra l'altro. Certo. Allora, grazie a Guido Maurino per aver commentato con noi la giornata Piazza Affari. Prima di chiudere definitivamente la nostra pagina dedicata ai mercati, vi rendiamo conto però dei dati di Mediobanca. Oggi il titolo ha chiuso in negativo, meno 3,63%, questo pomeriggio conference call per presentare appunto i dati. L'utile netto nel semestre chiuso a fine dicembre è sceso a 100,3 milioni dai 639,9 di un anno fa. Sui conti semestrali di Mediobanca pesa l'impatto della crisi dei mercati per 430 milioni sul portafoglio azionario. In particolare poi influiscono i risultati di alcune svalutazioni per un totale di 281 milioni di euro, tra cui Telco, RCS, titoli AFS, ossia disponibili per la vendita, e altri. E poi comunque Mediobanca ribadisce una solidità patrimoniale invariata. Ci scrive un ascoltatore dicendo che forse oggi abbiamo visto un minimo di borsa, quindi forse finalmente è arrivato un segnale confortante. Staremo a vedere anche che cosa intende l'ascoltatore per un minimo di borsa, e staremo a vedere soprattutto nei prossimi giorni che cosa succederà. Lo abbiamo detto in apertura di programma, situazione molto difficile oggi a partire dal Giappone. Il governo sta studiando delle misure per sostenere i listini. Noi siamo in collegamento telefonico con Tokyo, con l'inviato del Sole 24 Ore Stefano Carrera. Buonasera Stefano. Sì, buonasera. Allora, una giornata molto pesante anche per Tokyo, per il listino giapponese. In indiscrezioni di stampa ci dicono che il governo giapponese sta studiando delle misure per sostenere i listini. Sì, è così. Oggi il ministro dell'economia e delle finanze, Kaoru Yosano, ha dichiarato proprio che il governo sta studiando misure di emergenza per sostenere il mercato azionario. Ancora non è chiaro cosa intenda fare, ma in vista c'è la possibilità di un acquisto proprio diretto di titoli in borsa, forse al di là dei piani già delineati per togliere alle banche, da parte del governo e della banca centrale, parte delle loro partecipazioni azionarie. Perché il governatore Shirakawa, il governatore della Banca del Giappone, ha detto chiaro che il problema principale delle banche giapponesi non è un rischio di credito in questo momento, ma è proprio il mercato azionario. Perché? Perché è caratteristica tutta giapponese che le banche detengano ampie partecipazioni azionarie nelle società industriali con cui hanno rapporti di affari. Ma il crollo della borsa fa cadere il valore di queste partecipazioni sotto appunto il valore di libro, intacca quindi la loro struttura patrimoniale, quindi le banche devono ricapitalizzare per poter erogare crediti, e le loro necessità di ricapitalizzazione deprimono ulteriormente il mercato azionario. Ci fai qualche esempio di questi possibili aiuti? Perché visto che comunque i casi sono un po' diversi, quindi quello che accade in Giappone e quello che accade qui in Europa per quanto riguarda, e soprattutto negli Stati Uniti per quanto riguarda le banche e la loro struttura, è possibile fare qualche esempio per capire meglio di che cosa si potrebbe trattare? Per esempio, intanto è già in corso da parte della Banca del Giappone un programma per cui l'Istituto Centrale ha messo a disposizione circa 1.000 miliardi di yen, oltre 10 miliardi di dollari, per comprare le azioni delle banche. Anche il governo ha delineato la possibilità di entrare nel capitale delle banche regionali per poterle salvare nel caso appunto si profilasse una loro difficoltà finanziaria. Per esempio il titolo di Nomura, che ha perso il 9,3%, è sceso ai minimi da 26 anni, perché ha annunciato ieri Nomura il suo primo collocamento azionario da due decenni, un collocamento che non piace agli investitori. In effetti, di fronte al calo del mercato, del business e all'operazione con cui Nomura pensava di diventare una società di brokeraggio di statura mondiale, Ecco, diciamo, la situazione non appare più molto, molto positiva. L'amministratore delegato di Nomura aveva detto: comprando attività Lehman Brothers, sì, per noi è un'occasione che si presenta una volta al secolo, ma in questa situazione di mercato in realtà nessuno sottoscriverebbe in questo momento il fatto che l'aver acquisito Lehman Brothers sia stata per Nomura l'operazione del secolo. Certo, comunque una mossa positiva non in questo momento. In questa giornata ha brillato un po' la stella opaca del premier Aso, che è volato a Washington. Cosa c'è sul piatto di questo incontro? Ma diciamo anzitutto che secondo me il fatto che Aso sia il primo leader straniero ad andare alla Casa Bianca è un po' anche una riparazione, perché il segretario di Stato Clinton, Hillary Clinton, sì, è arrivato a Tokyo la settimana scorsa e ha voluto incontrare anche il leader dell'opposizione, e la mossa non era particolarmente diplomatica, no? Sì. Però tutti qui ormai pensano che entro pochi mesi il dominio del Partito Liberal Democratico, che guida la politica giapponese quasi ininterrottamente da più di mezzo secolo, cadrà. Di fronte a questa così mossa poco diplomatica, un po' un hedging politico che ha fatto la Clinton ha invitato, come ha invitato a Washington, Taro Aso, e questa è l'occasione per riaffermare la centralità dell'alleanza tra Giappone e Stati Uniti per gli equilibri politici nell'Asia. Sicuramente tu parlavi dell'alleanza, un'alleanza anche economica, visto che comunque il Giappone è il secondo detentore dopo la Cina di bond statunitensi, quindi comunque un rapporto privilegiato da mantenere, soprattutto in questo momento. Grazie a Stefano Carrera in collegamento con noi da Tokyo, a lui buon lavoro. Sì, a voi buona serata. E noi adesso lasciamo i mercati e cerchiamo di appunto dare qualche buona notizia ogni tanto, tornando in Italia, parlando di immigrazione, in particolare di imprenditori immigrati diventati tre volte tanto negli ultimi 5 anni. È stato presentato oggi il primo rapporto organico sugli imprenditori immigrati in Italia, realizzato dalla Fondazione Ethnoland e dal dossier statistico Immigrazione, con la collaborazione di ABI, Confartigianato, CNA, Provincia di Roma e Union Camere. Si tratta di un'impresa ogni 33 rispetto al 2003. A giugno 2008 il loro numero è appunto triplicato. Dal 2000 sono nate ben 140.000 aziende, al ritmo mediamente di 20.000 aziende l'anno. E allora Anna Marino ha chiesto di spiegare questi dati a Otto Becioca, presidente della Fondazione Ethnoland. I dati ci danno ragione, dicono che gli imprenditori immigrati in Italia sono 165.000 e che questi imprenditori hanno una propensione a creare lavoro che è intorno a 500.000 posti di lavoro, cioè 500.000 di posti di lavoro con tempi che corrono, e hanno un gettito fiscale di oltre 7 miliardi di euro. Non solo questo, che il corpo immigrato nella sua interezza produce tendenzialmente 10.5% del prodotto interno lordo. L'integrazione nella quotidianità, l'integrazione non si fa attraverso la legiferazione, comunque che serve un'incentiva, una legge che potesse incentivare questi imprenditori, perché gli imprenditori immigrati sono il miglior agente per la cooperazione e lo sviluppo. Intendo parlare della nuova frontiera per la cooperazione e lo sviluppo, e che sono anche i miglior vettori per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, dove si parla di Made in Italy è presente, è conosciuto, ma non è presente. Questo è l'obiettivo. Le imprese sono recenti, il boom è avvenuto da poco. Ma il boom parte dall'88 fino adesso. Noi abbiamo 10 anni di crescita costante. Non bisogna dimenticare che gli imprenditori immigrati creano intorno mediamente 20.000 imprese ogni anno. Le attività che vengono svolte dagli imprenditori immigrati quali sono? Noi partiamo dalla logistica al commercio. Si vedete sul campo, i negozietti immigrati hanno un po' sostituito le famose drogherie, macellerie, insomma. Poi c'è la ristorazione, c'è anche l'edilizia, dove la ristrutturazione delle case sono fatte oggi da immigrati rumeni, albanesi, egiziani, insomma. Perciò siamo tutti i settori metodologici. Nonostante la crisi che colpisce l'Italia e altri paesi, è in crescita il settore, diciamo, degli imprenditori immigrati? Può sostenere la crisi economica attraverso il revenue, il reddito che produce dalle imprese. Quanta parte dei guadagni ritorna nei paesi? L'imprenditore è uno che ha la propensione a reinvestire nella sua propria attività e far crescere i suoi progetti. Non è un dipendente che dice: io risparmio e faccio money transfer da casa mia. Investe sul territorio dove è presente. E allora l'imprenditore è comunque uno che tende a investire, o dovrebbe tendere a investire, nella propria attività, quindi poco torna nel paese di origine. Le 18 e 7 minuti, seconda parte di Focus Economia. Vi do le chiusure definitive per quanto riguarda l'Europa. Parigi ha chiuso in flessione dello 0,73%, Francoforte dell'1,03%, Londra ha ceduto lo 0,89%. Meglio ha fatto Milano, dove il MIBDAL ha chiuso in flessione di 1,020%, mentre l'S&P MIB ha guadagnato lo 0,29%. In questo momento il Dow Jones sta guadagnando lo 0,82%, mentre il Nasdaq sta guadagnando quasi un punto percentuale. Cambio euro su dollaro 1,27,61 in questo istante. E adesso andiamo con le notizie in breve. Apertura del petrolio oggi poco mossa, in progresso di uno 0,3% a New York a $38,55 al barile. L'Euribor, il tasso a tre mesi, quello che di solito viene utilizzato per i mutui variabili, nuovo record che viene aggiornato giorno per giorno. Ieri eravamo all'1,87%, oggi all'1,86%. Per quanto riguarda i titoli, BOT in questo caso e CTZ, rendimenti in calo ma richieste sempre molto alte. Il rendimento dei BOT a 6 mesi tocca un nuovo minimo record dopo quello segnato a fine gennaio. Nell'asta di oggi i titoli semestrali del Tesoro hanno registrato un rendimento lordo dell'1,23%, in calo di 0,24 punti. In netto arretramento anche la cedola per i CTZ, ovvero i certificati del Tesoro zero coupon a scadenza 30 settembre 2010, che toccano nuovi minimi a 1,83. Però per quanto riguarda le aste, l'importo offerto da Via 20 Settembre per i BOT a 185 giorni è di 10 miliardi contro richieste che hanno superato i 13 miliardi. È molto alta anche la domanda dei CTZ per quasi 4,5 miliardi contro un'offerta di 2 miliardi e mezzo. Andiamo negli Stati Uniti. American International Group, più conosciuto, meglio conosciuto come ING, in trattative col governo americano per ottenere nuovi prestiti che consentano alla società di far fronte alle perdite pesantissime subite nell'ultimo trimestre. Questo è quanto rivela l'emittente CNBC, aggiungendo che secondo alcune fonti ING potrebbe aver registrato nel trimestre una perdita pari a circa $60 miliardi, la maggiore mai subita da una società americana. I risultati verranno annunciati il prossimo lunedì. Oggi pomeriggio ha parlato anche il governatore della Fed Ben Bernanke. Prima però è uscito il dato relativo alla fiducia dei consumatori. L'indice calcolato dal Conference Board nel mese di febbraio è crollato al minimo storico di 25 da 37,4 di gennaio. Il presidente della Fed, Bernanke, intervenendo davanti alla Commissione bancaria del Senato americano, ha detto che per una ripresa totale dell'economia serviranno oltre 3 anni. Però Bernanke ha anche detto che i primi segnali di ripresa potrebbero aversi nel 2010, solo se i mercati e le banche si saranno stabilizzati. Ad ogni modo, l'economia statunitense sperimenta, parole di Bernanke, una severa contrazione. In ogni caso la Fed è impegnata a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per combattere questa crisi. Allora, abbiamo parlato ovviamente in lungo e in largo e continuiamo a farlo di questa crisi. La crisi però può generare anche delle opportunità anche per i nostri imprenditori. Ovviamente chi può permetterselo, chi ha gli strumenti per, chi ha ancora gli strumenti per. Di quali opportunità ci parla e ce ne racconta la nostra Raffaella Calandra in questo viaggio a New York. Lasciati a malincuore nella loro vetrina un paio di sandali gioiello in saldo, passeggiando per Soho, 3 amiche inaugurano la nuova filosofia dello shopping in tempo di crisi. Più attenzione al prezzo, allo sconto, ma anche al design, preferendo colori e linee a lunga conservazione. Perché ora si è diventati più responsabili e prima di comprare ci si pensa 2 volte, riflette la giovane donna, e si prende solo ciò di cui si ha bisogno, nell'incertezza di cosa possa succedere. risolvere, aggiunge l'amica. La crisi a Manhattan, la vedi nei negozi vuoti, nelle saracinesche all'improvviso abbassate, negli annunci di saldi fino all'80%, ma tra le luci, ora un po' più fioche di New York, il Made in Italy potrebbe anche trovare nuove occasioni. Ne è sicuro il console italiano Francesco Maria Talò. Parlando con alcuni rappresentanti delle imprese italiane, abbiamo anche colto dei segni, diciamo, relativamente confortanti, perché nostre imprese che sono finanziariamente solide riescono probabilmente a cogliere anche le opportunità che sono presenti in ogni crisi. E poi c'è un altro aspetto molto importante, la specificità del nostro sistema in generale, il sistema Italia, la grande base culturale che è strettamente collegata all'offerta produttiva dell'Italia, di economia reale. Quindi secondo lei da questo momento di crisi potrebbe anche venirne fuori una forma di riposizionamento dei marchi italiani come punti vendita? Sì, come sistema penso di sì. Annuisce Tommaso Brusa, chief executive negli States di Furla, senza negare i cali. Dal mese di settembre-ottobre, quando c'è stato il crack in borsa a Wall Street, si è riflesso in modo quasi immediato sulle vendite, diciamo. È possibile avere già una stima, una percentuale del calo delle vendite? Siamo che è un po' macchia di leopardo, perché un'azienda come la Furla, che è un'azienda che ha 200 doors negli Stati Uniti, va dalle Hawaii a New York, a Toronto, si è partiti con la costa est, con un calo di alcuni punti percentuali, per poi andare progressivamente nella costa ovest. Abbiamo mercati come le Hawaii, per esempio, che non sentono della crisi dovuta al fatto del turismo giapponese. Sicuramente alcuni punti percentuali rispetto alla controcifra l'anno scorso ci sono tutti. Più money, whatever is cheaper, people looking for the... Se la parola d'ordine ora per chi è più in difficoltà è cercare il cartellino più economico, l'insidia di questa crisi e della sua paura si insinua anche nelle classi più alte, come nota Mark Levy, advisor di vini a New York. Tutte le sezioni di vendita sono state colpite negativamente. Abbigliamento, gioielli, beni durevoli, insomma. Il vino continua ad essere venduto, ma la gente ha deciso di tagliare sulla media del budget. Così, se ad esempio spendevano $20, ora ne destinano 12. Si compra ciò che è meno costoso e un cambio di rotta si vede assolutamente anche tra le classi più alte e ha avuto un grande impatto sulle etichette più costose. La reazione classica psicologica delle classi più abbienti è ridurre drasticamente le spese. Per capirci, questo esempio. Nei vini, dopo un consolidamento del mercato nel 2007, abbiamo due grandi catene di distributori per il vino. In uno di questi, fino a dicembre, la percentuale dei clienti senza più accesso al credito, che dovevano pagare subito cash la merce, era del 5%. A febbraio è diventata il 45%. C'è stato un gigantesco incremento dei clienti, cui non viene più fatto credito. Così segnali di cambiamento nelle abitudini di vita si registrano pure in uno dei circoli più esclusivi della Grande Mela, come lo Yacht Club, dove incontriamo Vittorio Codecasa, produttore di vini piemontesi, arrivato a New York convinto che nella crisi si possano ritagliare interessanti spunti per i marchi di qualità. La situazione che ho trovato è di una crisi molto profonda, quindi trovare sbocchi sia per i venditori che per gli acquirenti diventa un punto fondamentale. La cosa più impressionante è che questa crisi sta toccando tutti i livelli, a partire dalle classi più abbienti. Sono stato oggi presso l'ICE di New York e il responsabile mi diceva di una crisi pesantissima nei negozi del lusso, dove di solito la crisi arriva molto molto attenuata. I ristoranti sono abbastanza vuoti. Però appunto sul fronte della ristorazione, ad esempio, se la crisi è un danno per le grandi realtà, forse può essere un'occasione per quelle di medio piccolo dimensioni, che riescono a fare ordini di quantità inferiore alle altre. È un'opportunità. La difficoltà di questo momento obbliga tutti a cercare a 360 gradi delle nuove opportunità. Siamo nella sede del New York Yacht Club. Il Made in Italy è ancora, può essere una tutela nei confronti delle bufere finanziarie? Il prodotto italiano è molto ben visto negli Stati Uniti, prima con un mercato in continua espansione e le scelte erano infinite, adesso si dovrà fare delle scelte mirate e il Made in Italy, per quanto rappresenta, dovrebbe partire avvantaggiato. Nel viaggio della nostra Raffaella Calandra a New York non si parlava solo di griff della moda, ma si è parlato anche di vini, in qualche modo, certo, un livello piuttosto alto di vini, appunto di soglia medio-alta, però comunque collegato con tutto il settore alimentare. Oggi a Roma è stato presentato il bilancio 2008 dell'industria alimentare italiana. I numeri dell'alimentare italiano: un giro d'affari da 120 miliardi di euro, un export pari a oltre 19 miliardi, i dipendenti del settore superano i 380.000. Nel 2008 appunto l'export ha fatto registrare un balzo in avanti di quasi il 10%. Questo è quanto ha reso noto il presidente di Federalimentare, Gian Domenico Auricchio, intervistato da Paola Anania proprio dopo la presentazione del bilancio 2008 del settore. Sentiamo. Il 2008 si chiude in maniera, non è stato un anno positivo anche per l'industria alimentare come per tutta l'industria italiana. Noi chiudiamo, rimaniamo il secondo comparto manifatturiero del paese con oltre 120 miliardi di euro di fatturato, però la produzione industriale cala dell'1,5%. Sono dati inferiori, notevolmente inferiori a quelli dell'industria nel suo complesso, perché ricordo che l'industria nel suo complesso è calata di oltre il 4,5%. Quindi in qualche maniera il settore alimentare cala, ma riesce a tenere rispetto alla congiuntura? Riesce a tenere, tra l'altro mettendo in evidenza le sue doti anticicliche che ha sempre dimostrato, e soprattutto dovute anche alla rigidità dei consumi. Per farle un esempio, tra il 2000 e il 2008 l'industria alimentare, la produzione dell'industria alimentare è cresciuta di 7,7. Nello stesso periodo l'industria in generale è diminuita di 5,8, quindi vuol dire un gap, una forbice di oltre 13,5 punti. Questo che sottolinea la capacità anticiclica dell'industria alimentare. Nonostante questo, il 2008 c'è stata una diminuzione particolarmente significativa, ma ancora più significativa sono le previsioni che noi abbiamo di calo della produzione nel corso del 2009, dove stimiamo oggi, anche sulla base dell'uscita dei dati di dicembre 2008 su dicembre 2007 e soprattutto su gennaio su dicembre, prevediamo una diminuzione di questo di quest'anno intorno al 2,5-3%. Si parla di rischio protezionismo. Che tipo di impatto può avere sul settore alimentare il protezionismo nel caso in cui scattasse questo meccanismo? Ma guardi, io ricordo che gli italiani sono da sempre dei grandissimi trasformatori e quindi noi trasformiamo, perché molte delle nostre filiere non sono autosufficienti, importiamo delle materie prime, le lavoriamo e poi le trasformiamo in quel Made in Italy d'eccellenza che ha tanto appeal fortunatamente sulle tavole di tanti paesi dal mondo. Per darle un esempio, a fronte di una diminuzione di produzione, come dicevo, di 1,5 punti, noi registriamo a consuntivo una crescita dell'export di quasi il 10%. Una crescita di quasi il 10%, tra l'altro che è mediato da un più 16 nei primi 6 mesi e da un più 10 a totale anno, quindi vuol dire che c'è stato un appesantimento in concomitanza con la grande crisi finanziaria da settembre a dicembre. Però vede che questo più 10, che si affianca e si aggiunge a dei dati positivi degli ultimi anni, tant'è vero che hanno portato l'incidenza il rapporto tra fatturato dell'industria alimentare e fatturato esport dal 14%, dove era inchiodato da oltre 10 anni, a quasi il 17% nel giro di solo 3 esercizi. Ed è stato lo stesso presidente Gian Domenico Auricchio a dire che il settore è comunque aiutato da alcuni fattori, è un settore anticiclico, quindi non risente più di tanto delle crisi, anche perché c'è una rigidità dei consumi. È ovvio che su tutto si può tagliare, ma poco si può tagliare sull'alimentare. Nonostante questo, sempre la Federalimentare, nel presentare il suo bilancio, ha detto che stabilisce, che afferma che da 2 anni ormai i consumi interni dei prodotti alimentari presentano fenomeni di erosione e le vendite a prezzi correnti si sono fermate nel 2008 sull'1%, quindi un punto percentuale. Per tastare il polso del settore, sempre la nostra Paola Nania ha poi raccolto anche la testimonianza di alcuni operatori, cominciando con Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Alca Gruppo Cremonini. La situazione è oggettivamente una situazione non semplice, è una situazione che dal nostro punto di vista però prevede una continuazione degli investimenti e una crescita del fatturato globale, perché siamo un'azienda in crescita soprattutto sui mercati internazionali e non riteniamo che questa situazione sia tale da farci fermare, anzi complessivamente il gruppo aumenterà il numero di dipendenti, quindi sicuramente prevediamo di continuare la crescita avviata negli ultimi anni. Francesco Senesi, la nostra impresa è Conservi Analisa, trasformiamo pomodori, legumi e tante altre cose buone. Come impresa, per quanto riguarda il mio settore, un anno di verifica, sicuramente staremo un po' a guardare, ovviamente diciamo sono tendenzialmente positivo, guai non esserlo. Quindi al di là del settore anche per la sua impresa proprio? Sì, tendenzialmente siamo positivi perché poi comunque parliamo di prodotti di base, di largo consumo e che ovviamente io dico con pochi centesimi di euro mangia una famiglia. Se pentiamo una lattina di pomodoro con un pacco di pasta, quindi facendo sistema con un po' d'olio, mangia una famiglia. Quindi ovviamente in un momento così di crisi particolare ovviamente si va alla riscoperta anche un po' di prodotti della tradizione. Cosa prevedete per l'export? Voi esportate? Sì, noi esportiamo, ovviamente l'export fino all'anno scorso è andato benissimo, quest'anno un po' tendenzialmente causa un po' le varie valute che si offrono un po' di più, però stiamo mantenendo le posizioni come azienda. Insomma, aziende. Visto il periodo soddisfatto? Visto il periodo siamo positivamente contenti, quindi aspetteremo un po' il prossimo anno. Bruno Veronesi dell'AIA, sono presidente di AIA. Un'impresa che si occupa di cosa la sua? Di avicolo e poi del nostro gruppo fa parte anche Negroni, Salumi, Montorsi e Mangimi Veronesi, quindi noi siamo nell'agroalimentare completo insomma. Voi per il 2009 che tipo di previsioni avete? Per esempio un calo dell'export? Noi come impresa, come, esatto, come gruppo? Gruppo Veronesi. Ma noi abbiamo una previsione di leggero incremento del mercato interno e di percentuale costante nell'export, perché noi lavoriamo principalmente col mercato europeo, quindi come avicolo siamo nel settore fresco, quindi la distanza è limitata anche di esportazione. Nei salumi abbiamo un raggio d'azione più ampio, però prevalentemente nel mercato europeo, per cui noi non come gruppo Veronesi non temiamo questa crisi insomma, dell'export. E allora, ultime note positive. Prima però di chiudere vi rendiamo conto di un'affermazione di Cardia, del presidente della Consob, ancora una volta per fugare ogni dubbio su una possibile nazionalizzazione di banche italiane. Allo stato attuale l'ipotesi di nazionalizzazione di banche in Italia non è realistica. Questo è quanto ha dichiarato da Parigi il presidente della Consob Cardia, il quale ha detto si tratta proprio di una ipotesi di scuola. In questo momento è molto meglio favorire strumenti a sostegno delle banche come ad esempio i cosiddetti Tremonti Bonds. E allora noi ci fermiamo, io ringrazio in redazione Gaia Romani e Mauro Del Corno, in regia Valeria Bernardi. Focus Economia torna domani alle 17:00.